stesso, rimango perplesso. Schizzo tutto nello stesso verso, il cuore e il piacere, ma adido di me stesso. Mi giro e mi rigiro sempre nello stesso verso. Azzardo un sospiro e penso: che fesso. Volgo uno sguardo allo specchio. Il viso è visibilmente stanco. Un occhio è quasi spento. Mi siedo, sposto il lenzuolo come un velo, poi mi alzo. L'equilibrio si risveglia stento. Cammino piano, mi chiudo in bagno, apro l'acqua e vintingo il viso. Sono sveglio, rinsavito dall'antico sonno. Rifletto sul presente, ma non c'è tempo, ed esco subito all'istante.